Europa 24. Senza la crescita e gli investimenti, la fragilità economica in Europa tornerà ed avrà impatto sul mondo e sugli Stati Uniti. Forte di queste parole del presidente americano Barack Obama, il premier italiano Matteo Renzi porterà domani al vertice europeo di Bruxelles le istanze italiane, ma anche le richieste che all'Europa arrivano da oltreoceano con gli Stati Uniti, che si avvicinano ormai alla scadenza elettorale. È interesse strategico degli Stati Uniti garantire che la crisi migratoria in Europa venga risolta, ha detto ancora Obama. Siamo molto concentrati sul rafforzare il governo di unità nazionale in Libia e risolvere le tensioni. Se non abbiamo un partner dall'altra parte, ci saranno problemi. E l'altro partner è l'Europa. Un saluto da Anna Migliorati. Dunque, Europa che si prepara domani al vertice europeo. Migranti, accordo commerciale col Canada, rapporti con la Russia, questi temi nel menu del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. In primo piano l'immigrazione, tema sul quale il presidente europeo Tusk nella lettera di invito ha sostenuto che l'Unione sta lentamente superando il punto critico. I 28 faranno il punto soprattutto sul Migration Compact. Tusk ha sottolineato che la rotta balcanica ha fatto registrare un crollo del 98% nel passaggio di migranti nell'ultimo anno, con un parallelo raddoppio dei migranti irregolari rimpatriati. Anche se la rotta del Mediterraneo centrale, quella che ha come punto d'approdo l'Italia, resta sui livelli dello scorso anno per numero di arrivi. Nella cena di domani focus sulla Russia, su iniziativa italiana, secondo quanto hanno rivelato fonti comunitarie, e nel dibattito su Mosca entreranno in gioco sia la situazione in Ucraina che quella in Siria, così hanno spiegato le fonti. A dicembre sarà infatti il momento di decidere se rinnovare o meno le sanzioni contro la Russia. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E sull'immigrazione l'Italia continua il pressing. Siamo arrabbiati perché siamo oggetto di un monitoraggio costante e ossessivo, siamo sotto la lente di ingrandimento, ma noi la nostra parte la stiamo facendo, ha detto anche questa mattina il prefetto Mario Morcone, capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, in audizione al comitato parlamentare a Schengen, e ha aggiunto: sono gli altri paesi che non stanno facendo la loro parte. Una buona notizia per l'Italia però c'è, Italia che da maglia nera diventa modello virtuoso contro le frodi europee. Questa mattina un rapporto che fa ben sperare. In Italia aumentano o diminuiscono le truffe sui fondi europei? La risposta non è semplice, ma è come in questo caso, infatti il bicchiere può essere visto come mezzo pieno o mezzo vuoto. A scorrere il rapporto reso noto oggi alla Camera dal Comitato Nazionale per la Repressione delle Frodi nei confronti dell'Unione Europea, si legge che nel 2015 si è registrato un calo del 20% e nei primi 9 mesi del 2016 un calo del 34%. Ma nonostante questo, l'Italia è sempre ai primi posti per numero di brogli e truffe sui fondi europei, dopo Romania, Repubblica Ceca, Polonia, è ben distante da paesi come quelli scandinavi, dove le frodi sono praticamente nulle. Ma, e qui è il punto, un elevato numero di frodi riportate, aveva già specificato tempo fa il Parlamento europeo, non significa necessariamente che le attività illegali siano più numerose, ma piuttosto che il sistema antifrode in quel paese potrebbe essere più efficace. E questo sarebbe il caso dell'Italia, paese molto zelante, sottolinea la relazione del Comitato nel denunciare i casi di frode, tant'è che il sottosegretario agli affari europei Sandro Gozzi parla dell'Italia come paese leader nel contrasto alle frodi, avendo attivato strumenti di cooperazione investigativa cruciali per un controllo sui fondi strutturali ed essendo il primo paese a dotarsi di una piattaforma informatica antifrode. Il 9 novembre, tra l'altro, il nostro paese presenterà al Parlamento europeo una proposta per permettere finalmente a tutte le autorità amministrative dei vari paesi di poter richiedere dati utili per scovare le frodi. Alessandra Schepisi, Radio 24, il Sole 24 Ore. E oggi il giorno di ExoMars. L'Europa ormai vicinissima a Marte. L'arrivo del lander Schiaparelli sulla superficie del pianeta rosso è previsto alle 16.48 di oggi, ora italiana. La missione ExoMars, gestita dall'Agenzia Spaziale di Europa e Russia, avrà così raggiunto il suo primo grande obiettivo. Per la prima volta un veicolo europeo attraverserà l'atmosfera di Marte in una discesa mozzafiato di 6 minuti nella quale raccoglierà dati e informazioni. Adesso Schiaparelli si sta ancora avvicinando al pianeta rosso in stato di ibernazione per risparmiare energia, si risveglierà tra poco alle 15.37 italiane. Allora ve lo racconteremo nel corso della giornata, ora però ci fermiamo qui, l'appuntamento con l'Europa torna però come sempre questa sera a effetto notte. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.